Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Che è successo? Non va a capitare un ricchione nel mio scompartimento, proprio di fronte a me. Terribile. Pomodorini, tieni compagnia a che, come vengo io? Ma pure le ferrovie dello Stato, dico, ma fate uno scompartimento a parte per questa gente. Esatto. Cioè, con gli anziani vicino. Dove finiremo? Che sfiga. È la prima volta che viene a Milano? Sì, prima volta. Ti fermi molto? Sì. Ecco. Al freddo metto canti. Veramente, io mi scrivo, mi compongo, mi arrangio, cioè sono musicista completo. Senti, e tu che fai invece a Milano? Personal trainer. Ah, il personal trainer. Ormai è passata la storia delle facezie locali, il film Cado alle nubi, in cui Checco Zalone viene dalla provincia, in fondo è fatto di pochi basici principi, le sue radici stanno in una terra in cui non si va tanto per il sottile, il bianco è bianco, il nero è nero, l'uomo è uomo e ad Apuzzà. E quando esce dal suo habitat si confida, guarda caso, con il compagno del fratello, gli dice questa cosa orribile, c'era un gay nel treno, ma per lui non c'è niente di male il dire quello, come avesse detto qualche generazione prima un appestato, uno che ha qualcosa che si contagia, che fa star male. Qual è il suo problema? La radice del suo atteggiamento discriminatorio? L'ignoranza, semplicemente una persona ignorante. Oggi, come abbiamo ricordato nel giornale radio, è una giornata mondiale, non è tante giornate mondiali, per me le giornate mondiali ormai sono inflazionate, tra quelle con un senso etico, con un senso religioso, con un senso civile, con un senso ludico, si perde il senso delle giornate mondiali. Però io prendo l'occasione di parlare di un tema che in realtà è molto discusso, ma è sempre discusso con addetti ai lavori, non è mai discusso con le persone che in realtà percepiscono qualcosa che sta attorno alla problematica delle persone omosessuali, comunque appartenenti a una caratteristica a volte evidente, a volte non evidente, di diversità rispetto a quello che è, che cosa? Mo me lo domando anch'io, un costume generale, una maniera generale di coprire comunque qualcosa veniva considerato disdicevole, qualcosa veniva considerato contro le regole che gestivano, gestiscono la società, i principi etici, i principi religiosi. Sono sempre state persone omosessuali, persone con attrazione, affettività verso persone del proprio sesso. In molte epoche hanno avuto modo di esprimersi in maniera libera e tranquilla, in grandi civiltà del passato. In altra epoca lo hanno vissuto attraverso metafore poetiche, letterarie, sempre tenendolo nascosto. In altre epoche ne hanno fatto una bandiera rivoluzionaria, subendo recriminazioni, discriminazioni o passando alla storia, proprio per questo particolare segno della loro espressività. Nel momento attuale sembra che apparentemente ci sia un costume generale, che è quello delle persone più civilizzate, che tenda a pensare e considerare che sono non problemi la scelta affettiva, la maniera di porsi nei confronti della sessualità, dell'affettività, dell'amore, del sentimento verso altri esseri umani, deve essere qualcosa di individuale, personale, non socialmente determinante. E quindi da una parte esiste il pensiero politicamente corretto, dall'altra parte esiste però una realtà fatta anche di forte discriminazione, nonostante che ci siano persone palesemente, apertamente, dichiaratamente omosessuali che gestiscono anche importanti settori della cultura, soprattutto della cultura, ma anche del mercato, l'imprenditoria, dell'economia. Ancora esiste il grosso problema nelle scuole, parlo nelle scuole italiane, un ragazzino che semplicemente non ha atteggiamenti aggressivi, da predatore viene subito bollato, va, vedi, Finocchio, e comincia per lui un iter dolorosissimo, qualunque sia comunque la sua destinazione affettiva o erotica, non c'entra niente, comunque sia è un bollo di infamia. Se si fa una giornata internazionale, evidentemente sono domande da porsi. Quanto a voi dà fastidio, quanto a voi viene considerato un problema, perché dovrebbe essere un problema? Ma lo vedo dal fatto della campagna surreale, se non fosse che tocca il sentimento, il malessere, a volte l'infelicità, a volte il dramma di tante persone, farebbe ridere. Le circolari che vedo, che vedo ancora passarsi ai genitori su questa sorta di storia del complotto gender. Oggi la vera omofobia è su due settori, secondo me. Uno è il settore discriminatorio, cattivo, crudele, che c'è sempre stato, del macio rampante che deve affermare comunque la sua possibilità di essere capobranco, quindi se la prende con quelli che hanno un minore grado di mascolinità e li umilia e li maltratta, o forse dentro di sé ha paura di essere come loro. E l'altra è quella più sommessa, che dice: no, noi non siamo contro assolutamente, però sapete, c'è un grande complotto internazionale per minare quelle che sono le basi dell'ordine naturale, e giù è gente preoccupata a guardare, sfogliare i libri di scuola, i compiti delle maestre, i disegni che fanno fare, i lavoretti, vedere se ci fosse mai traccia di questa sorta di inquinamento del loro comportamento. 800 24 0024, voi come la pensate? Io ho una dedica da fare a questa trasmissione, l'ascoltatore che ogni giorno, e anche questo mi fa pensare, mi fa riflettere, potrei chiamarlo al microfono e sentire cosa vuole, e tutti i giorni puntualmente, ma da mesi devo dire, inizia la trasmissione dandomi i peggiori insulti, perché secondo lui non ho il coraggio di manifestare pubblicamente, di fare un coming out, di dire al mondo intero che io sia omosessuale. Questo per lui è un grande problema, e ogni giorno, partendo in maniera sommessa, arrivato all'insulto, e trova ogni argomento di trasmissione buono per ribadire questa sua rabbia profonda. Beh, è paradigmatico, è l'emblema comunque di un comportamento nascosto, e su questo vorrei riflettere. 800 24 0024. Melog, Cronache Meridiane. Questo è il mio primo concerto milanese. La canzone è una canzone che io la dedico sia a mio cugino, ma anche a tutta la gente che hanno il suo problema, a tutta la gente meno fortunati come lui. E lo faccio nella speranza di aiutare la ricerca anche per questo tipo di patologia. Maestro, vai con la base, spingi play, vai con la base, vai. Ma che malattia hai? Nessuna. Ascolta, tuo cugino dice che sei malato. Ma non lo so, sto benissimo. Alfredo, guardami, sei impazzito anche tu. Dentro a questa società, nei confronti di chi tiene un'altra sessualità, quando la gente che vi ingiuria, quando la gente che vi attacca, solo perché non vi piace la patacca. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali. Questa canzone ha fatto epoca sugli uomini sessuali. In realtà è un bravo ragazzo che ha bravi principi, ma considera quello che per lui è sempre stato considerato una malattia, qualcosa di diverso, deviato, come dei poveretti, come tratterebbe una persona che ha un handicap. Dice: beh, vedi poverino, su, c'è questa malattia, perché trattarti male solo perché non ti piace la patacca? Questa è la riduzione a termini essenziali, quello che probabilmente è il problema del nostro paese. C'è una cultura arcaica, una cultura soprattutto spaventata, con molto spaventato, ecco, il Signore continua a chiamare ogni volta. Non voglio fare un caso personale, ma qualcuno già mi ha consigliato: perché non chiami quello che dice che tu hai il culo chiacchierato, così capiamo qual è il suo problema. Sì, ma già mandato non so quanti messaggi. Poi strano che la stessa persona mandava poco fa, Nicoletta Carbone, richieste sulla sua pressione, cioè problemi di pressione. Sì, che ha problemi di pressione, ci stiamo rendendo conto. C'è Nicoletti: ti pareva che non parlavi di tipi simili, voi ricchioni siete un pericolo per la società, dovreste essere rinchiusi e trattati col napalm. Analizziamo questo messaggio, insomma, la prendono, mi fa sorridere. Voi ricchioni, primo, attribuisci un termine dispregiativo che in sé racchiude un senso profondo di intolleranza nei confronti di persone che hanno scelte nel campo, scelte o comportamenti nel campo dell'affettività, della sessualità, diverse da quelle che sono quelle della norma. E le attribuisci a una persona di cui non sai nulla, che non te l'ha detto, che non ti dirà mai quali sono le sue attitudini, ma semplicemente perché sono cose che non entrano nei temi della trasmissione normalmente. Dice: siete un pericolo per la società. Qual è il pericolo per la società? Che è come una malattia che si trasmette, che si attacca, che si ricchionisce tutto il mondo. Questa è la vostra paura. Ma se tu fossi, in realtà parlo a te ascoltatore col telefono 3932 che inizia così, poi potrei dire anche il resto, che sei tanto arrabbiato, ma qual è il pericolo? Ma saresti felice te, unico grande maschio predatore, unico uomo dalla virilità prorompente in un mondo di persone non interessate alle donne? Ma pensati, saresti l'unico sovrano e padrone di tutte le patacche del mondo, perché devi prendertela tanto? Dovresti essere rinchiusi. Rinchiusi perché? Quando le chiusi cosa ne fai? Poi devi mantenerli in vita? No, trattati col napalm, sterminati. E una volta sterminati, scusa, come fai con quelli nuovi che nascono? Perché ne nascono da quando è iniziato il mondo, quindi non è che puoi circoscrivere il problema come tu elimini le persone contagiate dalla malattia. Rifletti almeno, caro ascoltatore, su quelli che sono i motivi del tuo odio. Se il tuo odio è razionale, non ha nessuna motivazione, soprattutto se esprime attraverso maniere razionali, e devi capire che il problema è tuo, hai tu un problema, non gli altri. Paolo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, niente, io mi riallaccio un attimino a un discorso sentito pochi minuti fa. Io ho 56 anni e prima media era stata formata una classe un po' speciale di ripetenti. Io ero abbastanza, diciamo, dedicato, non giocavo a pallone, non ero, appunto, come dicevi prima, aggressivo. Ma ci siamo passati tutti, scusa Paolo, esattamente è stato il mio problema elementare, le medie, al liceo dei preti, naturalmente al primo giorno mi è arrivato, oh, ricchioni, quelli che poi il prete se li portava in camera, capisci? È evidentemente una sorta di destino di chi non è molto aggressivo nella della fanciullezza, probabilmente, no? Esattamente, ma poi però la chicca è stata questa, che mia madre andò a parlare con la professoressa di italiano e insinuò il dubbio in mia madre dicendole: ma suo figlio non è che... E lei disse: ma non so, a me sembra... Ma quanti anni avevi, Paolo, al tempo? Io avevo 11 anni. Cioè, capito, a 11 anni. E nel caso, cosa suggeriva? Una cura? Cosa suggeriva? No, non aveva suggerito nulla, aveva insinuato il dubbio, me ne parlò mia madre, mi disse questa cosa. Certamente, diciamo che il fatto di non essere, diciamo, codificato in qualche modo un po' mi aveva così lasciato il dubbio di non essere proprio... giusto, diciamo così, di non essere... Poi naturalmente le cose si evolvono. A me piacevano le ragazze, mi piacevano tanto, era questo il problema. Beh, ma nessuno, a parte questo, no. Nessuno deve essere costretto a segnalare in maniera esplicita quello che è il suo sentire interiore. Possono piacerti o non piacerti, sono fatti tuoi. È chiaro, c'è una società in cui uno deve dare grandi segnali di appartenenza a un branco. Chi non dà questi segnali subito viene guardato con sospetto. Ma la cosa singolare è che il primo sospetto che viene è proprio questo: tu hai dei problemi dal punto di vista dell'aggressività maschile. Questo è proprio una parte degli uomini. Non ho esperienza su quello che accade per le donne, magari qualche ascoltrice mi chiama, magari qualche ragazza che preferiva giocare a pallone ha subito lo stesso processo e subiranno ancora le ragazzine lo stesso processo da parte delle sue coetanee. Però vorrei capire dov'è la radice in tutto questo. In questo caso è molto palese: la maestra, antiquata, arretrata, spaventata, corroborata chissà da quale pensiero, dice: ma questo ragazzino avrà un problema di tipo sessuale. Non ha detto la madre: perché questo ragazzo è così timido, gli faccio fare uno sport, cerchiamo di aiutarlo come possibile. No, è un problema di tipo sessuale. A 11 anni, poi, quando ancora diciamo che la sessualità è qualcosa di molto sfumato e molto indeciso. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io volevo semplicemente dire che io credo che moltissimi omosessuali, diciamoli così, una parte di questa nasce a livello ormonale, con una carica ormonale che non potrebbero, sono delle donne dentro a un corpo di uomo, ma una grandissima maggioranza di queste persone secondo me li diventano, e li diventano e non sono neanche consapevoli. Perché molte volte è sufficiente avere subire uno stupro. Sì, proprio non proprio uno stupro, comunque un'attenzione. Che una persona adulta o anche coetanea. Sì, ma adesso scusi, no, scusi, da Maurizio, non è che la voglio adesso non è che stiamo qui, non è una trasmissione sulle ipotesi clinico-scientifico-biologiche, perché nasce, come nasce. Diamo per scontato che esiste un sentimento generale di paura, di repulsione, di diffidenza, o perlomeno non è vissuto serenamente. Ci possono stare i biondi, i bruni, gli alti e i bassi, i grassi e magri, già un po' già entriamo in delle categorie che abbiamo viste con sospetto, ma quello troppo grasso in effetti non è in forma e via dicendo. Ma per quello che riguarda l'affettività e la relazione esiste una paura. Adesso non è che mi interessa in questo momento discutere se ci si nasce o si diventa, se sembra quelle dispute si facciano da bambini, c'è nato, c'è diventato. Ammesso ci siano delle persone che non gli va di esprimere un'affettività nei confronti di persone del sesso diverso, ecco perché queste persone è necessario sia una giornata contro l'omofobia, sono comunque oggetto di discriminazione, come se rubassero qualcosa a qualcuno, facessero male qualcosa. A mio parere non rubano assolutamente nulla, anzi sono delle persone che meritano di vivere la loro vita nella pienezza della loro vita, meritano di vivere i loro sentimenti, soltanto che noi siamo troppo bigotti in un mondo di bigotti dove noi magari sono proprio quelli che puntano il dito ad essere i primi. Quindi questo molte volte questo molte volte è vero, questo è scientificamente provato, che molte volte degli atteggiamenti esasperati, patologici, rabbiosi nei confronti di certi tipi di avversari di comportamento nascondono la paura di venire scoperti in qualcosa che si vede come una vergogna, come una limitazione, e questo è palese. I più grossi propugnatori della natura, della legge di natura nei confronti dei comportamenti sessuali, poi uno non vorrebbe mai andare a vedere nel loro privato, nella loro testa, nei loro comportamenti quello che fanno. Però vede, lei ha dimostrato una apparente apertura che tutti dimostrano, come quando tu fai le inchieste in giro e cosa guardi in televisione, c'ha quei bei programmi, quei bei documentari costruttivi, educativi, guardo Piero Angela, via dicendo, poi in realtà i grandi numeri li fanno i talent show, i reality show, i programmi assolutamente più sguaiati. Ecco, non vorrei ripetere, facciamo una trasmissione di buoni principi, vorrei capire esattamente quell'area intermedia, limacciosa, ipocrita, nascosta, che ognuno di noi probabilmente un po' coltiva in sé, è quello che poi alla fine ti fa sì che la battuta ce la fai comunque, anche se fai delle belle trasmissioni politicamente correttiste, poi ti dai di gomito con l'amico e fai la battuta magari su quello che vedi passare per strada o su Macron che dice beh sì, quello sicuramente con la moglie anziana, figuriamoci, si vede, poi da come cominciare a analizzare si vede, e se anche si vedesse e se anche fosse, qual è il problema? Allora raccontateci se avete mai subito, visto discriminazioni per problemi che riguardano comunque la sfera affettiva, la sfera relativa. Vi hanno mai accusato, vi siete visto accusare persone in famiglia, a scuola, nel lavoro, per il fatto dice, ma quello lì, secondo me, o anche quella lì, per le donne probabilmente è ancora più sottile, più soffuso e può essere ancora più ipocrita l'atteggiamento, però anche per le donne accadrà, noi siamo più abituati a considerare un problema di discriminazione soltanto maschile, vorrei che anche le donne parlassero, vi hanno mai accusato, sei un maschiaccio, perché non giochi con le bambole, guarda come si taglia i capelli, e quella esce sempre con quell'amica, certo fra di loro chissà che storia c'è, poi se anche c'è, ma buon per loro, ma chi se ne importa, saranno fatti loro. 800 24 0024. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Gagliarda la campagna, ecco, io a vivere qua per tutta la vita ci metterei subito la firma. Signorino Roberto! Occhio fino, come sta? Signorino, che piacere di rivederla, come sta? Bene, bene. Sono proprio contento. Questo è Occhio fino. Onoratissimo. Piacere. Chissà che sorpresa per gli zii, adesso vado subito ad avvertirli. Chissà come saranno contenti, con permesso. Signora Enrica! Signor Michele! Occhio fino, sapessi quante volte mi ha tenuto in braccio. Lo credo. Non avevo mai visto una chicca di campagna. Ma che dici? Non mi direi che non lo sapevi, è così evidente. E poi scusa, secondo te perché lo chiamano Occhio Fino? Così, soprannome. Ma che soprannome? Occhio Fino, Finocchio. È chiaro. All'inizio degli anni 60, il sorpasso, in un clima in cui naturalmente era già palesemente rappresentata l'omosessualità nel cinema, pensate nella Dolce Vita, in tanti altri film c'era, però era sempre considerata una sorta di macchietta. Trintignant, che torna nella casa di campagna, non aveva mai fatto caso, non si era mai posto il problema che l'anziano fattore Occhiofino in realtà fosse gay. Il più smaliziato compagno di viaggio, Gasman, lo dice subito: è Occhiofino, Finocchio, chiaramente. Ecco, questa maniera di percepire. Oggi parliamo comunque della libertà di esprimere come si vuole le proprie scelte affettive e di vita sessuale, senza essere considerati comunque dei danni o dei pericoli per la società. Su questa parola scelta che ho detto io sono arrivato un'infinità di sms, cioè non è mica una scelta, noi ci nasciamo, ma è una scelta di esprimerlo apertamente, esternamente, quello che ognuno ha dentro è insondabile, non credo se ne possa fare una regola per tutti, soprattutto nei nostri comportamenti verso il mondo esterno, è un'alchimia talmente individuale, talmente complessa da raccontare, che non me la sento a dire a nessuno: tu ci sei nato, ci sei diventato, se non avessi conosciuto quella persona non lo saresti stato, se non avessi avuto quella delusione, sono fatti di ognuno. Io penso che il bello è la leggerezza nel permettere a ognuno di esprimersi come vuole, ma anche di essere omosessuale e non dirlo a nessuno, fingere di non esserlo, fatti suoi. Non ci deve essere nemmeno il sentimento opposto, la ricerca, l'indagine, come il signor Mischia, confessalo, devi confessarlo, ma cosa l'importa a lei che il mondo debba confessarlo? Ma qualora lo dica e lo dimostri, vada in giro come gli pare, con chi gli pare, non è che deve essere guardato come una persona sia portatore di una malattia. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, allora io ho un carissimo amico che ha fatto un'esperienza all'estero e durante questa esperienza all'estero ha scoperto un lato della sua sessualità a cui non aveva mai pensato prima. E la cosa che mi ha veramente lasciato di stucco è stato quando lui ha deciso di rivelarmi questo che per lui era una specie di segreto molto oscuro. E per l'appunto quando me l'ha rivelato mi ha detto: sì, però io spero che possiamo comunque rimanere amici, spero che non cambierà mai l'idea che hai di me, che per me era una cosa lo trovo da un certo punto di vista triste, ma anche plausibile che dica questo. Cioè, adesso non mi guarderei con occhi diversi, è logico, capendo il clima culturale e il livello di sensazione che si ha, è logico si ponesse questo problema, non dovrebbe essere così, ma è logico. Lei l'ha rassicurato e ha detto: ah, per me non cambia nulla. Certo, chiaramente, ma appunto per questo io penso che ci sia ancora più bisogno di giornate come questa, dove viene detto che cioè, non c'è assolutamente niente di male, non c'è bisogno di renderlo un problema, perché alla fine ognuno deve essere libero. Ecco, le faccio un'altra domanda, Giacomo. Nel giro delle vostre amicizie comuni, frequentazioni comuni, lei è convinto che in realtà questo suo amico, con la stessa leggerezza e tranquillità, avrebbe potuto dire la stessa cosa a tutti gli altri amici? Non penso, perché so di altri amici che sono comunque brave persone, ma che hanno un pregiudizio comunque di fondo che è difficile da tirar via. Come meno non li invitano più a casa se hanno i figli, che non si sa mai, capito? Che magari gli salta addosso in un momento di distrazione. Grazie. Marco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io porto la mia esperienza, sono un insegnante di canto, di musica in genere, e quindi ho proprio per l'ambiente che frequento molta più facilità nel arrivare a parlare di questo, perché il rapporto tra insegnante di canto e allievo in genere deve essere molto molto libero. Nell'ambito artistico si ha più facilità a tra virgolette confessare, e quindi io ho tantissimi allievi che mi dicono le loro tendenze bisessuali, omosessuali, quello che sia. A me personalmente non interessa nulla, ma proprio davvero, nel senso che non suscita il mio interesse sapere a chi ti piace, se ti piace un fiore piuttosto che un albero, per me è lo stesso. Detto questo, però, io ho vissuto una specie di attacco preventivo, diciamo, all'omosessualità da parte di un genitore che ha ritirato il suo bambino di 9 anni dal coro di Voci Bianche, che era composto in prevalenza da femminucce. E quindi mi ha detto: no, meglio che io lo ritiri, perché non si sa mai, sai, sono tutte femminucce. E io gli ho detto: ma... Perché il ragazzino, diciamo, cioè non aveva nessun problema... Cioè, voci bianche cosa significa? Cioè, la voce... Sono bambini, bambini fino prima dell'età dello sport. No, perché io ho un sinistro ricordo, le voci bianche quando pigliavano per farli cantare nelle chiese li tagliavano le palle ai ragazzini. Io non sono arrivato a tanto. Spero bene. Però capisci, una volta le voci bianche... Lei pensi cosa siamo stati capaci di fare? Di castrare dei bambini perché cantassero in chiesa con una voce particolare. Ma si rende conto? Ragazzi, ma fino all'Ottocento è durata questa roba, Certo. Era normale che si mettesse in chiesa i bambini mutilati, avranno la vita totalmente stravolta, perché avevano una voce angelica e quindi funzionava così. Terribile questa cosa. È follia pura, ovviamente. Però io trovo altrettanto folle il fatto di dire non si sa mai, tolgo il bambino dal coro. Che magari si divertiva come un matto a cantare con le bambine. Assolutamente sì. Quindi io creando, secondo me, ancora un problema in più a questo bambino. Perché la mamma mi ha tolto? Divertivo, stavo con le bambine che sono carine, non rompono le scatole, non mi insultano. E poi magari aveva una qualità. Quello che io ho risposto al papà è stato, io me ne andavo a cercare, qui c'erano più bambine che bambini quando ero ragazzino, quindi voglio dire, non vedo perché... Ma poi è più rassicurante, onestamente, con le bambine sta più sereno, è il galletto del pollaio, non c'hai i bulli che lo martirizzano, e soprattutto la madre aveva saputo, non è che ci sarebbe stato in eterno, perché la voce a un certo punto lui gli sarebbe cambiata comunque. Ai 13-14. Quindi 2 anni lo lasciavi divertire così, poi passava nel coro degli alpini. Esatto, io poi quando gli ho in realtà detto, ma se facesse il ballerino, quindi allora lui mi ha risposto, papà, il ballerino non ci pensiamo neanche. Questi quindi, sono i veri danni che si fanno ai figli, capito? Il problema nasce, probabilmente quel ragazzino forse qualche trauma da questa cosa lo avrà. E allora adesso spero che siano in ascolto quei genitori, perché Fabio secondo me può scombinare quelli che sono i loro pregiudizi, i loro principi incrollabili riguardo alla scelta dello sport più o meno virile o dell'attività più o meno virile, e la propria personale volontà di essere quello che gli pare. Fabio, buongiorno. Sì, buongiorno. Le volevo portare appunto questa testimonianza. Io da anni gioco a rugby qui a Padova e io ho conosciuto, frequentato ragazzi che giocano con me, che hanno giocato con me, addirittura nella società in cui ho cominciato a giocare il capitano era gay e veniva con il suo compagno alle partite, ma non era in discussione il fatto che non fosse il capitano in quanto aveva un compagno anziché una compagna, anzi questa cosa nel nostro mondo, da quello che ho percepito, chiamiamolo mondo, ma comunque chi pratica questo sport appoggia anche un certo stile di vita, e questa cosa non interessa praticamente a nessuno. Uno degli arbitri più famosi al mondo ha fatto outing anni fa e si è stupito che a nessuno interessasse quello che però nel mondo del calcio c'è questo tabù, si sa per vulgata, per prova, per il mondo del calcio ha gran parte di virilizzarsi, c'è un numero abbastanza importante di giocatori anche famosi che naturalmente preferirebbero uomini alle donne, però non si può dire, è una cosa, uno dei tabù più indicibili nel mondo del calcio. Nel rugby non esiste questo. Ma non interessa a nessuno chi fa cosa con chi frequenti, sei libero come è giusto che sia. Cioè, forse perché c'è meno divismo, allora il calciatore di grido deve essere anche un ammazza femmina. È importante la persona e naturalmente queste persone poi che io stimo tantissimo perché fanno delle scelte di vita che sono più complicate rispetto agli altri. Sicuramente. Perché noi siamo costretti a essere, chiamiamoci etero, ecco, però più di qualcuno vorrebbe che qualcun altro non si interessasse alla propria vita privata. Ma è indubbio che comunque sia è un percorso di vita che ha delle difficoltà rispetto agli altri, sicuramente, perché quando ci si comporta in ambiti che non sono quelli percorsi dalla maggior parte delle persone, comunque si ha sempre la vita un po' più difficile. Che hanno comunque una vita un po' più difficile ci sta già, ma che al di là di questo debbano anche ancora essere considerati, non leggo più gli sms che mi arrivano, ma come qualcosa da bruciare, da ammazzare, da togliere, come se fosse qualcosa che contamina. Si fa una grossa confusione, fra l'altro, rispetto agli ambiti di magari delle persone che possono approfittare di minori, via dicendo, che è tutto un altro ambito, ma stiamo parlando di persone adulte, almeno in questo campo, di persone in via di formazione, che hanno il pieno diritto di fare quello che vogliono, dovrebbero avere il diritto di poter fare esprimersi come vogliono. Ci fermiamo un istante, tra poco. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Melog, cronache meridiane. Aspetta, scusa, mi do una rinfrescatina. No, no, no, no. Che ha fatto ora? E quello sarebbe il modo di camminare, secondo te? Perché no? Ma se stasera cammini così, siamo fregati. Come devo fare? Vieni qua, vieni. Non strillarmi, eh. Prova a camminare la John Way. Ah, da duro. Bravo. Che? John Way scende da cavallo, si avvia verso il saloon, apre la porta e zac, prova anche tu, dai. Devo fare John Way? Prova. Sconfessato poi il vizietto in questo modello di mascolinità come John Wayne, quando Manuel Fantoni dice a Verdone che in realtà anche John Wayne era gay, dice no, non è possibile, sì, anche John Wayne era gay, come questa rivelazione improvvisamente cambiasse tutte le carte in tavola. Sto leggendo le reazioni più o meno sugli SMS. L'accusa è quella di voler essere sicuramente in linea con i tempi, di essere politicamente corretti, dire sempre la stessa cosa, poi fino alle paure totali, inutile girarci intorno con frasi politicamente corrette, sono culattoni e basta, purtroppo domineranno il mondo, gente come Tiziano Ferro e compagnia bella andrebbero eliminati. Ma come fanno a dominare il mondo? Guardate, quando saranno tutti loro, facciamo così, non ci sarà più nessun altro degli altri. Ecco, alla fine il mondo finirà se così fosse, non sarà così. Domineranno il mondo. In parte già alcuni posti chiave, almeno nel campo della cultura, dell'espressione, dell'arte, della rappresentazione, dell'informazione, è tenuto da persone gay. Poi se queste qua abbiano voluto in qualche maniera fare lobby, sono fatti loro, ma non si riesce a vivere tranquillamente senza questo sia un problema. Io non faccio battaglie, non metto nessuno negli altari, non dico sono meglio loro degli altri, hanno una inclinazione poetica, sono tutti artisti, sono più sensibili, ma è avere amici come gay non sono amici migliori il mondo, ma no, figuramente, ci saranno fra loro persone infami, infide, terribili, crudeli, ma figura come tutto il resto del mondo, sono esseri umani, ma lasciate la maniera perlomeno di poterli insultare, maltrattare per quello che sono al di là della loro caratteristica di essere gay. Lucia, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Ascolti, dunque, un'esperienza un po' particolare. Io sono una rappresentante di classe di una prima media. Stiamo facendo consigli di classe straordinari perché dei ragazzini di prima, quindi di 12 anni, 11 anni, hanno preso di mira un altro ragazzino chiamandolo femminuccia e bisex. Questa è ritenuta un'offesa razziale punibile con 15 giorni di sospensione. Allora, la mia riflessione è che innanzitutto una cosa così vuol dire proprio differenziare una persona da un'altra, perché se io gli dico che è un'offesa razziale punibile con 15 giorni vuol dire che già discrimino, perché c'è una differenza. Ma razziale in quanto il bambino è di un'etnia diversa o razziale in quanto... Allora, lui è anche di un'etnia diversa, però in quel caso specifico la sospensione era solo perché l'hanno chiamata femminuccia, perché è più sensibile, lui è stato anche di banco con mia figlia, dice molto più sensibile, gli piacciono le cose. Ma perché non parlate con i genitori piuttosto per capire come mai c'è questo e non cercate di coinvolgere la classe in un tentativo di far capire a loro perché che dire femminuccia uno, prenderlo in giro, cosa nasconde, perché lo chiamano così, piuttosto sospendere un bambino che dice femminuccia, che magari non sa nemmeno esattamente di cosa sta parlando. Sì, ma infatti quello che ho provato a proporre io è questo, ho detto chi lo fa o lo fa per attirare l'attenzione, comunque sospenderlo non serve assolutamente niente. Ma secondo me è ancora peggio, ancora peggio. È peggio, però mi hanno detto e mi ha detto perché non fate una lezione appunto certo. Su che cos'è vuol dire bisex, su chi sono i grandi della storia che hanno tendenza. Allora la preside. Ma semplicemente una... lasciate in pace questo ragazzino, saranno fatti suoi, perché che problema avete se lui è meno aggressivo di voi? E se... sì, oppure farlo relazionare con gli altri, farglielo conoscere, però il problema che mi hanno detto che non si può affrontare in prima media una cosa così perché scaturirebbe un disastro anche verso le famiglie che si ribellerebbero, cioè, per me è una cosa fuori. Cara mia signora, è di quello di cui stiamo parlando. Primo, non si può dire che è una discriminazione tipo sessuale, che di sesso non si può parlare, che è tabù. Quindi si rivolta sul fatto che sia un ragazzino nero probabilmente, o grigio o marroncino, quindi quindi la scambiano per offesa razziale. È doppiamente ipocrita. Non ce l'hanno con lui perché è nero, ce l'hanno con lui, fosse anche bianco, perché ha un comportamento diverso dagli altri. È una chiara aggressione di tipo omofobo. Bisognerebbe affrontarla dando strumenti culturali per vivere più serenamente anche il sospetto che una persona possa avere un comportamento diverso dal tuo. Fatti suoi, non è che devi individuarlo e poi metterlo al muro. Ma guardi, gli sms che mi arrivano da persone adulte, quindi questo è il clima generale in cui ci muoviamo. Per questo vorrei smascherare l'ipocrisia di quelli che dicono: ma no, non è vero, siamo tutti comprensivi. Poi sono le famiglie che si ribellano se la scuola prende dei provvedimenti o perlomeno li porta a ragionare sui propri figli. Nicola, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Eccomi. No, allora, semplicemente io volevo intervenire su questo. E il problema dell'omofobia o comunque sia del bullismo legato all'omofobia è un problema che potrebbe tranquillamente non esistere, non sussistere. Se esiste, almeno secondo il mio modestissimo parere, è perché viene sempre, praticamente sempre, associato alle due ideologie o di destra o di sinistra. Cioè, entrambe propagandano in maniera positiva o negativa, demonizzando o valorizzando l'argomento, per cui fondamentalmente sono più due classi che si istigano a vicenda che altro. Sì, un po' sì, da parte c'è un tentativo di cavalcare comunque questa cosa, la cosiddetta esasperazione politicamente corretto, che alla fine, esasperando le persone, facendo una super esposizione del problema, la gente si stanca e dice: sì, ma avete rotto le scatole, basta, parlate d'altro. Questo può esserci, molte volte lo zelo porta a questo rifiuto. L'informazione culturale deve partire in maniera serena, non in maniera ideologica. Laddove c'è l'ideologia si perde il senso di quello che si fa. Francesco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sì. Io volevo complimentarmi con lei perché la seguo sempre, molto molto interessante. Senta, le volevo dire, io sono d'accordo che ci siano queste persone, non ho nessun problema con loro, possono fare quello che gli pare, sempre che mantengano un certo rispetto verso il prossimo. Ma questo vale per tutti, è chiaro, è logico. Ecco, mi sono trovato nelle condizioni di essere a disagio. Gli faccio Ha subito delle avance omosessuali? No, assolutamente non quello. Io ero nel parco con i miei, cioè due bambine, due piccole, ero nel parco e c'erano due ragazzi omosessuali che sopra una banchina facevano le sue cose. Allora, sono troppo lunga, è finita la sigla. Ha visto due uomini che si baciavano, le bambine hanno detto: papà, nonnino, perché si baciano? E lui aveva argomenti per rispondere. Si baciano perché si piacciono, si vogliono bene. Finiva lì. Qual è il problema? Alla prossima.